Da Il libro dell'amore di Kathleen McGowan, Pickwick Edizione, traduzione di Roberta Maresca, La vita di Matilde di Canossa, Granduchessa di Toscana. Parte prima. Mantova, Italia, 1502. No, non questa storia, Isabella, raccontami l'altra, quella del labirinto. Matilde aveva 6 anni ed era una bambina estremamente minuta, ma il suo aspetto fisico ingannava. Batteva a terra il piedino e scuoteva la massa di capelli rossi con fare imperioso, mentre dava ordini alla balia. Sai che quella storia mi piace più di tutte, non voglio sentirne altre, ma fermati prima della parte brutta, odio la parte brutta. La contessina di Canossa fece una smorfia per sottolineare il proprio disgusto e, come quasi sempre accadeva, Isabella di Lucca cedette alle sue richieste. Aveva pulito il sangue dal viso di quella bambina quando era venuta alla luce, l'aveva avvolta in fasce e cullata come se fosse sua figlia. Matilde era affidata alle sue cure sin dalla sera d'inizio primavera in cui aveva annunciato con un vigoroso vagito il proprio arrivo nella campagna toscana. Per il popolo di suo padre, che discendeva dai feroci guerrieri longobardi, la nascita di un figlio in concomitanza con l'equinozio di primavera era una particolare benedizione divina. Il pianto di quella neonata era così forte che il padre, che aspettava insieme ai suoi uomini in un cortile vicino, era certo di aver avuto un maschio. Il duca Bonifacio fu solo temporaneamente deluso quando seppe che il neonato era una femmina. Crescendo, Matilde manifestò subito le caratteristiche dei suoi nobili genitori. I mirabili tratti e la grazia della sua esile madre, combinati alla determinazione e alla forza del padre, e divenne la figlia prediletta di uno degli uomini più temuti d'Italia. Perché ti piace tanto quella storia, Tilde? Pensavo ti annoiasse ormai, visto che la conosci a memoria. Ne ho molte altre da raccontarti. No, no, non mi annoia. Perciò comincia dall'inizio. Era di nuovo un ordine. Isabella continuò a sorridere, ma rimase in silenzio. Per favore, Isabella, ti prego, mi racconti la mia storia preferita? Impersonerò la principessa Arianna e tesserò i miei magici fili mentre tu racconti. Va bene, ma preferirei non doverti ricordare ogni volta di usare le buone maniere, Matilde. La tua virtuosa madre viene dal casato più nobile d'Europa, è una discendente diretta di Carlo Magno, eppure non alza mai la voce. Nemmeno con il più umile dei suoi servi. L'hai mai vista gridare ordini in questo modo? No? E non la sentirai mai. E a parte tuo padre, che ha le sue buone ragioni, non vedrai mai un vero nativo di Lucca comportarsi così. Non è nel nostro stile, bambina. Non è la via. Matilde ascoltò attenta quelle parole di rimprovero. Quegli impulsi prepotenti derivavano dalla sua naturale vivacità e dall'influenza di suo padre. Poiché mentre Madonna Beatrice era, come Isabella aveva ricordato, una dama colta e di altissimo lignaggio, Bonifacio non si poteva definire altro che un rude soldato. Nella sua stirpe si univano i discendenti di una città spirituale come Lucca e il sangue dei selvaggi guerrieri longobardi che avevano invaso l'Italia nel VI secolo, seminando distruzione in ciò che restava dell'ormai morente impero romano per integrarsi poi nella casa di Toscana. L'influsso longobardo, tuttavia, prevaleva nettamente in Bonifacio, facendo di lui un signore feudale spesso spietato e sempre avido di potere. Anche se aveva ereditato grandi ricchezze e non meno potere, il duca di Toscana lavorava senza sosta per accrescere i propri domini. Sotto il suo dominio i fiumi che circondavano Mantova, il Po e il Mincio, cominciarono a fiorire come arterie commerciali utilizzate per gli scambi con l'Europa nord-occidentale. Prima che Bonifacio prendesse le redini del comando, i mercanti temevano lo stato di anarchia che regnava nell'Italia settentrionale ed evitavano gli scambi commerciali nella zona. I collegamenti fondamentali che dai grandi porti come Venezia servivano per l'importazione di merci di lusso dall'Oriente ed altre zone del Mediterraneo erano stati tagliati di netto. Ma il duca di Toscana governava la Valle del Po con pugno di ferro, facendo impiccare briganti e pirati dopo essersi assicurato che fossero stati brutalmente mutilati, per segnalare a chiunque che un simile comportamento non sarebbe più stato tollerato. Bande di uomini impavidi e ben ricompensati vennero organizzate per formare una forza scelta che pattugliasse le zone fluviali in nome del Granduca. La strategia di Bonifacio salvaguardò le rotte commerciali e riuscì a garantire la libera circolazione dei mercati e delle merci più preziose dell'Adriatico lungo i fiumi e dal Ducato settentrionale di Sassonia attraverso le Alpi. In cambio dell'utilizzo delle rotte, esigeva tasse e dazi dai mercanti che erano ben lieti di pagare per avere il diritto di commerciare in tutta sicurezza in una zona così redditizia. La sua ricchezza e il suo potere assunsero proporzioni leggendarie, grazie anche all'aiuto della sua nobile e bellissima sposa. Lei era il gioiello della sua corona feudale, la legittimazione di cui aveva bisogno e a cui ambiva. L'unica debolezza di Bonifacio era la sua adorata figlia, che spesso conduceva a cavallo con sé quando andava a ispezionare i territori del ducato. A 6 anni Matilde era una cavallerizza di gran lunga più esperta di molti maschi adulti dell'epoca. Tuttavia, dopo che Matilde aveva trascorso un po' di tempo in compagnia del padre, a Isabella occorrevano parecchie ore e molta pazienza per correggere il comportamento della bambina. «Mi dispiace, Isabella». Matilde si sforzò di sembrare remissiva, anche se per poco. «Mi impegnerò a essere buona ed educata. Così va meglio. Ora, ricordami, dove comincia questa storia?» «A Creta!» strillò Matilde eccitata. «Sì, piccola, nel ricco e potente regno di Creta, in un tempo molto lontano». Isabella raccontò la leggenda del labirinto, come aveva fatto molte altre volte, nella versione che era conservata nel loro testo più sacro, il Libro Rosso. Adattava la storia all'età della bambina, eliminando i palesi riferimenti sessuali e fermandosi prima di arrivare a quella che Matilde chiamava la parte brutta, in cui le cose si mettevano male per i giovani amanti e Arianna veniva abbandonata a Dioniso. Per la bambina la leggenda del labirinto finiva sempre bene, con Teseo che uccideva la bestia, salvava i fanciulli di Atene e portava via con sé la bella principessa verso il tramonto. Avrebbe avuto tutto il tempo di imparare che la maggior parte delle storie d'amore era tutt'altro che semplice e non andava a finire così bene. I doveri di Isabella, come balia di Matilde, comprendevano il benessere spirituale e intellettuale della bambina, oltre che la protezione della sua persona fisica. Matilde era una bambina eccezionale per nascita e la sua tutrice era stata selezionata con grande cura. Il compito di Isabella era quello di crescere la bambina secondo le tradizioni segrete e ben custodite che si praticavano a Lucca sin dal primo secolo. Sebbene Bonifacio fosse occupatissimo con le conquiste e l'espansione del territorio per preoccuparsi della religione o della spiritualità, la trattava con riverenza in omaggio al suo bisnonno, il leggendario signore tedesco Sigfrido da Lucca. Era opportuno che la figlia venisse istruita e indottrinata in quelle tradizioni sacre. Così Bonifacio e Beatrice avevano scelto Isabella da una delle grandi casate di Toscana. Era una cugina e una nobildonna, una parente di Bonifacio, poiché discendeva dallo stesso Sigfrido. Nonostante la madre di Matilde, Madonna Beatrice, discendesse anche lei dall'illustre famiglia della dinastia di Lorena, le loro tradizioni spirituali erano più antiche di molti secoli e non avevano prosperato segretamente tanto quanto nelle zone selvagge della Toscana. Beatrice era consapevole delle sue origini eretiche, eppure conservava le tradizionali pratiche cattoliche in casa sua. Questo era necessario perché era un membro della famiglia reale tedesca che doveva fedeltà alla Chiesa cattolica e alla complessa struttura politica che determinava il potere in Europa. Beatrice era pia e obbediente, una donna aggraziata e forte a suo modo, ma felicemente sottomessa al marito. Infatti era stata insolitamente fortunata per una donna di quell'epoca, poiché aveva trovato amore e appagamento veri nel suo matrimonio combinato. Matilde non era la primogenita. Purtroppo Beatrice e Bonifacio avevano perso i primi due figli a causa di un'epidemia che era dilagata in tutta Europa. Uno di essi era il figlio maschio, l'erede di Bonifacio, che era morto giovanissimo, lasciando un'insanabile ferita nel petto del padre. La seconda era un'altra femmina, morta nella prima infanzia. La tragedia di aver perso due figli così in fretta aveva lasciato il segno su Beatrice, che era spesso debole e ammalata e aveva poche energie da dedicare alla figlia sopravvissuta. Così Isabella era l'unica vera figura materna che la piccola conoscesse. «Quando sarai più grande, bambina mia, ti racconterò una nuova storia del labirinto», disse Isabella, «una che parla del saggio re Salomone e dell'esotica e gloriosa regina di Saba. Oh, raccontamela adesso. No, non posso. Non hai ancora l'età per capire tutto quello che questa storia comporta. Te la racconterò dopo il tuo 16° compleanno, come si conviene. Matilde assunse un tono cospiratorio quando sussurrò: E nel libro rosso? C'era un timore reverenziale nella sua voce quando parlava del magico libro rosso. Isabella le fece l'occhiolino e annuì: Proprio così, e c'è molto altro in quel libro che dovrai conoscere. Ora però, a letto, vieni qui. Fatti legare i capelli. Con le sue dita delicate, Isabella cominciò la solita operazione serale, ossia domare i capelli biondo ramati di Matilde che le scendevano in pesanti onde fino a metà della schiena. Mi canti la canzone, per favore, supplicò Matilde, quella del paese di tua madre. Donna Isabella ripiegò il copriletto di lana sotto il mento della bambina e si sedette sul bordo del letto. Con voce dolce e chiara, cantò in francese. Il est longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Ti amo da lungo tempo, mai ti dimenticherò. Matilde, che parlava correntemente il toscano e la lingua germanica di sua madre, aveva iniziato solo da poco a studiare il francese. Quando ripeté il verso con una melodia corrispondente, lo fece nella sua lingua madre. Quindi Isabella terminò con l'antica poesia sacra della regione francese di La Beauce, dove sua madre era vissuta prima di sposarsi ed entrare nella stirpe di Lucca. Era tratta da un poema che un millennio prima un uomo illustre aveva scritto sul suo amore per una santa donna e per i suoi figli. Je t'aimais dans le passé, je t'aime aujourd'hui. T'aimerai encore dans l'avenir, les temps reviennent. Baciò Matilde sulla fronte mentre la bambina si allungava verso il piccolo altare che si trovava accanto al letto. Una statuina in legno di Santa Modesta, meticolosamente intarsiata, ornava l'altare. Era un dono del ramo francese della famiglia di Isabella, fatto 6 anni prima in occasione della nascita benedetta della contessina. In quella raffigurazione la santa aveva una mano alzata come per benedire, mentre con l'altra stringeva un libro di colore rosso, con particolari dorati. Matilde adorava quella statua di Modesta, i cui capelli erano dello stesso insolito colore dei suoi. La bambina passò una mano sulla statuina prima di sussurrare la traduzione di quei versi che erano parte del suo rituale serale e pietra angolare delle loro tradizioni. Ti ho amato prima, ti amo oggi e ti amerò ancora. Il tempo ritorna. Proprio così. Isabella sospirò mentre fissava quella splendida e complicata creaturina che amava come una figlia. A quanto pareva era volontà divina che lei amasse quella bambina come una figlia. Un giorno Matilde avrebbe dimostrato che il tempo ritorna, proprio come la grande profetessa della sua dinastia, la benedetta Sara Tamar, aveva annunciato tanto tempo prima. Era il suo destino. Matilde era sovraeccitata. Lucca, Lucca, davvero andremo a Lucca domani, Isabella? Davvero, insieme a papà? Sì, piccola, finalmente andremo a Lucca. Matilde ripeté ancora una volta il nome della sua città natale, stavolta fermandosi a sussurrarlo in una sognante imitazione di Isabella, che spesso sospirava pensando alla sua patria e ne parlava con toni irriverenti, come se fosse la dimora di tutti gli angeli sulla terra. A un tratto la bambina divenne molto seria mentre rivolgeva alla balia la sua totale attenzione. Non ricordo niente di Lucca, Isa. Lo credo bene, eri ancora in fasce quando siamo venuti qui a Mantova. Eppure è nell'aria sacra di quel luogo che hai tirato il tuo primo respiro e avrai la sua speciale benedizione finché vivrai. È davvero così bella e piena di angeli e santi? Ah, Lucca è magnifica. È il più bel posto sulla faccia della terra. Vieni, stasera ti racconterò una storia nuova che fa parte del nostro antico patrimonio. E Isabella non terminò la frase. Matilde, nonostante la sua precoce intelligenza, era ancora troppo giovane per capire tutto quello che la complessa eredità del loro popolo implicava. Meglio istruirla con il mezzo collaudato ed efficace del racconto, finché non fosse stata più grande. Ora voglio che ripassi Tutte le storie che io ti ho raccontato su Gesù, cominciò Isabella nel tono più formale che indicava l'inizio di una lezione oltre che di una storia. Matilde annuì con aria solenne, piegando le gambe sotto di sé e mettendosi comoda in attesa del racconto. Gesù aveva un amico che si chiamava Nicodemo. Nicodemo, mi puoi ripetere questo nome? La bambina ubbidì per farsi elogiare dalla sua balia. Nicodemo era uno dei soli due uomini che erano insieme a lui quando morì. Ricordi chi era l'altro? Matilde era un'allieva pronta, con una memoria straordinaria, adorava la storia della passione e imparava alla lettera ogni racconto che la riguardava. Non rifuggiva mai dalle descrizioni più vivide del sacrificio di Gesù sulla croce che le venivano fornite dal confessore di sua madre, un austero chierico originario della Lorena di nome frate Gilbert. Ma era la versione di Isabella quella che affascinava davvero Matilde, perché per quanto la piccola provasse una profonda devozione per Gesù e si commuovesse al racconto del suo sacrificio, era un altro aspetto di quella storia che l'ammaliava. La leggenda delle donne presenti nella vita di Gesù e di una donna in particolare. Matilde drizzò la schiena con fare ossequioso e rispose: L'altro uomo era Giuseppe di Arimatea, la soccorse Isabella. E Matilde continuò in tono entusiastico: Anche la madre di Gesù era con lui, insieme alla sua prediletta, Maria Maddalena. E c'erano anche tutte le altre Marie che lo avevano seguito come discepole. E che da allora in avanti predicarono le sue parole e le sue opere. Abbassò la voce producendo la versione fanciullesca di un sussurro cospiratorio. Ma non ci è permesso chiamare Maria Maddalena la sua prediletta davanti a frate Gilbert, giusto? No, non ci è assolutamente permesso. Ma perché? Se Gesù l'amava, perché noi non possiamo parlarne e amarla come l'amava lui? Perché dobbiamo avere tanti segreti? Isabella sospirò mentre accarezzava i capelli indomabili di Matilde, il cui colore ramato era solo uno dei segni che quella minuta contessa discendeva dalla più immacolata dinastia d'Europa, dalla sua dinastia. Si diceva che Maria Maddalena avesse i capelli dello stesso colore, persino quando era morta in età molto avanzata. Entrambi i genitori di Matilde discendevano dall'unione di Gesù e della sua amata Maria. La madre attraverso la stirpe di Carlo Magno, il padre attraverso le sette segrete italiane che si erano stabilite in Toscana durante le persecuzioni dei primi cristiani da parte dei romani. Era una domanda a cui era difficile rispondere, persino per l'adulto più istruito. Matilde non era ancora pronta per capire. Isabella girò l'ostacolo con la maestria di un cantastorie esperto. Questo amico di Gesù, Nicodemo, era un uomo speciale, con un grande talento che per noi oggi è molto importante. Vuoi sapere chi era? Un artista, uno scultore, sapeva prendere le immagini che gli donava il divino e ricrearle intagliando il legno. Come Federico? Federico era il servitore più anziano di suo padre, un altro membro fidato della cerchia di Lucca che circondava la nobile famiglia. Il vecchio Federico intratteneva spesso Matilde intagliando per lei ninnoli di legno. La sua bambola preferita, un'eccellente riproduzione della mitica Arianna, era un capolavoro che il vecchio aveva creato per lei. Sulla schiena della bambola aveva persino inciso una copia del labirinto, cosicché Matilde potesse cominciare a capire il complesso di disegno che era parte integrante della loro tradizione. Sì, quasi come il nostro Federico. Ma poiché Nicodemo era presente quando Gesù morì sulla croce, non riuscì a togliersi dalla mente quell'immagine così sacra e quindi decise di scolpirla nel legno, cosicché il mondo avrebbe ricordato quel mirabile sacrificio per molti secoli a venire. Gli ci volle un anno per portare a termine il suo compito, ma quando ebbe finito, Nicodemo aveva creato la prima opera d'arte in assoluto in grado di mostrarci che aspetto aveva Gesù. È chiamata Volto Santo perché è una delle due sole opere al mondo a essere state create da uomini che avevano guardato il volto di Gesù sia nella vita sia nella morte. Una è a Roma, un dipinto realizzato da Luca l'Evangelista ed è sotto la custodia del Papa, ma il volto santo è l'unica opera che ho visto ed è assolutamente magnifica. Matilde sgranò gli occhi. Hai visto quella scultura? Oh sì, e la vedrai anche tu. Matilde era così eccitata da non riuscire a star ferma. Ma quando? Come? Isabella la interruppe, abbi pazienza, lascia che vada avanti con la storia. Quando Nicodemo morì, la scultura sparì. I primi cristiani la portarono via per sottrarla ai romani in modo tale che non andasse persa né distrutta. Rimase nascosta in Terra Santa per 700 anni. E poi, quando i profeti dichiararono che era giunta l'ora, il volto santo, che un tempo aveva custodito il tesoro più sacro per il nostro popolo, fu preso dal nascondiglio e preparato per il viaggio. Tesoro sacro? Matilde sgranò gli occhi al pensiero di un grande segreto. Sì, bambina mia, perché vedi, mentre scolpiva il volto santo, Nicodemo aveva lasciato un'apertura sul retro della scultura, un'apertura segreta, in cui conservare l'oggetto più sacro di tutti. Il libro rosso? Isabella annuì. Sì, il libro rosso. Ed era il tesoro più sacro perché conteneva gli insegnamenti della via dell'amore, così come li aveva scritti Gesù, e più tardi avrebbe racchiuso anche le profezie della sua santa figlia. Ma ne saprai di più quando arriveremo a Lucca, perché è lì che vedrai il libro rosso di persona. È ora che tu cominci a essere istruita sul serio. Matilde era senza parole. Una cosa così inconsueta che scatenò in Isabella una risata squillante. Cosa c'è, piccola? Sei così sorpresa che sia arrivato il tuo momento? Hai appena compiuto 6 anni e questo è un numero magico. È il numero di Venere, il numero dell'amore. L'anno in cui ha inizio l'istruzione, soprattutto per un'attesa. Ma non aver paura. Io sarò con te in ogni fase del percorso. Ora, devo prepararti per l'incontro con il Gran Maestro. Per te sarà soltanto il maestro, niente di più. Non ha un nome? Oh, sono sicura di sì, ma non lo usiamo, lo chiamiamo il maestro, in segno di rispetto, perché discende da un'antichissima stirpe di guide scelte per l'ordine che si sono chiamate sempre tutte allo stesso modo. È un uomo davvero santo. Devo avvisarti di una cosa, però. Ha una cicatrice sul volto, Matilde. Una cicatrice bruttissima, ma non devi avere paura di lui. Questa sarà una prima lezione per imparare che non bisogna giudicare nessuno dal suo aspetto fisico, ma piuttosto aspettare e vedere che cosa ti dice la sua indole sulla sua natura intrinseca. Il maestro è un grande uomo, un uomo gentile, e ti istruirà come ha istruito me e tanti altri. Matilde aveva voglia di piangere per il peso di quelle notizie, ma si sarebbe trattenuta, anche se quel temibile maestro dal volto sfigurato. L'istruzione che avrebbe cominciato nella misteriosa Lucca era troppo. Forse andare a Lucca non era un regalo così meraviglioso. Forse sarebbe stato meglio restare lì, a Mantova, dove non aveva conosciuto altro che sicurezza. Si morse il labbro per impedirgli di tremare. Non aver paura, piccola mia. Isabella la abbracciò forte. Aveva il cuore di una leonessa, quella bambina, ma era ancora così piccola. Il tuo destino è bello. Devi solo ricordarti sempre chi sei, per grazia di Dio. Matilde annuì con aria solenne. Era la contessa di Canosse, l'erede del grande Bonifacio. Era una figlia di Lucca e la fanciulla della profezia. Lei era l'attesa. Era Matilde che per grazia di Dio è.